prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Si chiama Summer On, è il corposo fascicolo realizzato dalla Caritas di Padova con una serie di proposte estive di servizio e condivisione per i giovani. Ben ritrovati da Mirko Cavallin, è un tema che riprenderemo in questi mesi ormai di primavera avanzata in vista delle diverse iniziative. L'estate è un tempo speciale, come si sa, soprattutto per i ragazzi, i giovani, tempo di vacanze dopo le fatiche scolastiche, lunghe serate in compagnia degli amici, leggerezza, voglia di stare insieme e divertirsi, ma l'estate è anche tempo privilegiato per mettersi in gioco, sporcarsi le mani, dedicare tempo agli altri e a se stessi. Molte persone, singolarmente o in gruppo, si mettono alla ricerca di un'esperienza estiva che porti un valore aggiunto alle vacanze, qualcosa che metta insieme tutti gli ingredienti tipici dell'estate con la voglia di vivere qualcosa di diverso nella condivisione e nel servizio. Una possibilità è appunto l'esperienza di volontariato, parola che deriva dal latino voluntas, la libera volontà e la scelta personale, cioè il desiderio di offrire gratis tempo, impegno, capacità e buona volontà in diverse attività. Ciascuno è chiamato a realizzare questo desiderio, spinto da uno spirito solidale che anche la Costituzione italiana all'articolo 2 sollecita. Il volontariato offre la possibilità di incontrare l'altro, realizzare percorsi concreti di solidarietà. Ricorda la responsabilità civile di ciascuno nel promuovere e costruire il bene comune. Per il cristiano, inoltre, rappresenta una delle forme di carità autentica e gratuita a servizio dell'altro e della società. Il volontariato poi si trasforma in servizio quando passiamo dal fare quello che decidiamo noi per gli altri, magari perché ci gratifica, al fare quello di cui gli altri hanno bisogno in modo consapevole e spontaneo. Certamente un percorso che può essere faticoso, allora la Caritas propone la strada da fare insieme, partendo dall'analisi delle motivazioni, ponendoci delle domande, condividendo un'esperienza estiva di servizio che diventi occasione per rileggere il nostro stile di vita, dove lo spirito del servizio possa diventare un elemento essenziale della nostra quotidianità. Solo con le nostre azioni potremo contagiare gli amici, la comunità, promuovendo il cambiamento verso una società attiva e solidale. E questo fascicolo Summer On 2015 nasce proprio come strumento per orientare gruppi e singoli nel cercare la proposta adatta alle proprie esigenze e propri desideri. Una piccola raccolta, non esaustiva, non completa, con molti contatti, idee e indirizzi da cui partire per trovare l'occasione migliore per mettersi in gioco. Esperienze che davvero sono molte, poi anche con una fase di analisi, di testimonianze che arrivano ad esempio dall'anno scorso. Matilde dice: è stata una settimana ricca di forti emozioni e legami preziosi, durante la quale è successa una cosa inaspettata. Proprio noi che eravamo lì con l'intento di aiutare, donare noi stesse, ci siamo ritrovate a ricevere tantissima forza e amore da queste persone considerate deboli, ma che in realtà sono tra le più forti che abbiamo mai incontrato. Inizialmente ero un po' disorientato, scrive Giovanni, perché non sapevo come rapportarmi con queste persone con patologie anche molto diverse, ma poi tutto è venuto da sé, si sono creati dei legami veramente stupendi e profondi. Ora anche gli ospiti mi accolgono volentieri perché porti un po' di vita in questo posto che altrimenti sembrerebbe un funerale, come dice uno di loro. E sono davvero molte le iniziative, non tutte come detto, ma il fascicolo è molto corposo. Vi do un indirizzo e un numero di telefono. Indirizzo mail è volontariato@caritaspadova.it. La referente è Beatrice, che sentiremo dettagliatamente su queste iniziative nelle prossime settimane. Beatrice Barrichello della Caritas di Padova. Il numero di telefono è quello della Caritas: 049 877 1722. E allora partiamo elencando alcune di queste proposte, ad esempio un'iniziativa in città a Padova. Paradossalmente, invece di andare tanto distante, si può restare a pochi metri o a pochi chilometri da casa. Dal 3 al 9 di agosto si intitola Punti di Svista in Città, un campo di servizio e condivisione in alcuni contesti proprio della città di Padova, alternando attività di servizio, testimonianze, visite, tempo libero e divertimento. Proposta rivolta ai giovani dai 18 ai 25 anni, ci sarà una quota di partecipazione ancora da definire. Chi ha partecipato l'anno scorso racconta di aver scoperto dei luoghi, delle realtà proprio in città Padova, luoghi magari vicini a zone che frequenta per altri motivi, ad esempio solo di divertimento o di svago. Eppure la città Padova, come tante altre, è fatta davvero di tantissime sfaccettature. Più vicino nel tempo, nella seconda metà di giugno, il campo diurno di servizio per ragazzi e ragazze. Qui siamo in una fascia più bassa, dai 16 ai 19 anni, quindi terminata la scuola, per chi non ha esami, ovviamente, esami di Stato. Anche questa è un'iniziativa che si svolge a Padova. Poi c'è il campo diurno all'OPSA, l'Opera della Provvidenza Sant'Antonio, a Sarmeola di Rubano. Qui le date sono certe, dal 15 al 20 di giugno. Saranno svolte attività insieme alle persone con disabilità che sono residenti nella struttura, iniziativa rivolta in questo caso ai tirocinanti delle scuole superiori. E poi c'è il progetto Policoro, qui si aprono invece i confini in Sicilia, in Calabria o in Campania, dal 17 al 23 di agosto, per giovani dai 18 ai 30 anni. Visita le realtà che hanno collaborato alla concretizzazione del progetto Policoro, nato dal sogno di Don Mario Perti per i giovani disoccupati del sud in alcune diocesi siciliane, calabresi e campane. Ancora più distante, a Tunisi, un campo di servizio dal 22 luglio al 2 agosto, un servizio che si alternerà a momenti di conoscenza del contesto culturale e religioso, occasione di arricchimento culturale e personale grazie all'incontro con le diverse realtà che caratterizzano la città. Qui è necessario conoscere il francese e anche questa è una proposta per i giovani dai 18 ai 30 anni. Davvero tante pagine, lo sto sfogliando abbastanza velocemente, non ci sono solo iniziative della Caritas di Padova ma anche raccolte alcune dalle Caritas del Triveneto, come i cantieri di solidarietà Banja Luka in Bosnia e Erzegovina, una decina di giorni ad agosto, e poi analoga esperienza a Kutaisi in Georgia dal 25 luglio all'8 di agosto. E poi l'accoglienza dei rifugiati a Chioggia, a Villa Reggia di Portoviro, nel Parco Naturale del Delta del Po. Due le settimane possibili, dal 18 al 24 luglio o dal 14 al 20 di agosto. O ancora dalla Caritas di Verona e di Vittorio Veneto, l'esperienza a Reshene Burrell in Albania, 15 giorni con attività di servizio a supporto delle iniziative della Caritas locale rivolte ai bambini rom o con particolari fragilità. Davvero molto, quindi non mi dilungo ulteriormente, ripeto i riferimenti, la mail volontariato@caritaspadova.it. Il numero di telefono 049 877 17 22. Chiedete di Beatrice Barichello, che è referente appunto per tutte queste proposte estive di volontariato e di servizio. E Beatrice, contiamo di averla con noi ospite per qualche dettaglio in più nelle prossime puntate. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.